Vuol dire da una parte che la redazione della Zanzara sono quattro ragazzini che giocano a ping pong in redazione quando non c'è Cruciani, quando arriva lui si unisce pure lui a giocare e passano la giornata ad ascoltare così Radio Padania. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Giuseppe, oggi ti ascolto da una bellissima spiaggia cubana. Le mie giornate sono a base di Havana Club, sigari, femmine e zanzara, perché la zanzara è rivoluzionaria e tu, Cruciani, tu sei il leader massimo. Datemi un'ora d'aria, datemi la zanzara. Allora ragazzi, voglio aprire la puntata citando uno dei vignettisti più polemici in Italia, caro Parenzo, cioè citando Vauro. Allora, perché citiamo Vauro? Su Casaleggio, immagino. Su Casaleggio, che è morto stamattina, riposa in pace. Alla famiglia e ai 5 Stelle. Riposa in dai. Pace, abbiamo fatto grandi polemiche, abbiamo scherzato, lo abbiamo anche imitato, sì. Lo abbiamo anche imitato. Lo abbiamo attaccato, preso per il culo quando era il caso di prenderlo per il culo, quando ci sentiamo di prenderlo per il culo su mille cose, le cose che ha detto, però questo non c'entra niente con la morte. Di fronte alla morte, certo, alziamo tutte le braccia. Però hai detto anche tu una cosa apparentemente banale, ma sì, giusta. No, ma nel senso che no, sì, no che... ma hai detto una cosa che se avessi detto io banale ma giusta, le poi volte la banalità. Poi potremmo iniziare un ragionamento, cosa succede adesso nel Movimento 5 no, Stelle. No, ma questo è poco interessante. Ma sì, ma... Poi più interessante è quello che ha fatto Casaleggio. Questo è più interessante. Sì, devo dire la verità. Molti che adesso tipo dicono no, ha cambiato la politica in Italia. Beh, è vero, secondo me in peggio, sì, ma lo ha fatto. Ecco, erano gli stessi magari che gli davano del nazistoide, che gli davano, del capo della setta, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Ma comunque non è importante, chi se ne frega. Poi se qualcuno vuole intervenire anche su questo, sulla morte di Casaleggio, può intervenire ai soliti numeri, che è una signorina favolosa, sicuramente bellissima. Io non la bionda solita? No, la signorina del messaggio annuncia i numeri. Ah no, pensavo le bionde centraliniste nostre, pensavo no, alludessi i numeri proposti da questa meravigliosa signorina. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Voglio iniziare con il signor Vauro, perché Vauro ha fatto una vignetta online in cui Grillo è un burattino senza burattina, cioè nel giorno della morte, nel giorno della morte. Ma lo dico perché voglio fare l'elogio di Vauro, perché io con Vauro sono in disaccordo su praticamente tutto, tutto, mi divide tutto da Vauro, ma non me ne frega niente. Anche nel giorno della morte di una persona si può fare una vignetta su questa persona. Beh, ma non è cioè, contro... Grillo, però Grillo, questa oggettivamente nel giorno della morte, è più... Grillo come un burattino, sì, senza burattinaio. Contro Grillo, io sai che neanche io nutro grandi simpatie, però in questo caso è contro Grillo, no? Più che contro la persona, sì, comunque che è riguarda uno che viene considerato un burattinaio nel giorno della morte. Tu che cosa ma metti? Non lo rappresenta neanche. No, certo, cioè non cosa... lo rappresenta. È Grillo, no, per terra, distrutto con, sì, come un burattino sì, con i fili sparsi per terra, sì, no? Sì, sì. E nell'alto non c'è raffigurato il burattinaio, però nel esatto, giorno della morte dice. Tu riaffermi che c'era, è morto un burattinaio. Cioè fai una polemica politica, però esatto, puntata su Grillo più che sulla persona. Vabbè, comunque, che allora è scomparsa. Comunque è scomparso un burattinaio, dice. Non è che si rallegra della scomparsa, naturalmente, però sì, però è scomparso un ecco, burattinaio. Ecco, bravo, questo è il punto. Non si rallegra. Ma esatto, no, credo a differenza di altre volte. No, ma no, a differenza di altre volte. Però sentiamo Vauro che diceva dei 5 Stelle. Diceva cose macabre. Sentiamo. Questa volta no. Sentiamo. prima di votare Grillo mi taglierei le palle. Ma sì, addirittura, come mai? Proprio non c'è una cosa. Tanto, come ho già detto, perché vista l'età che ho, non è che ne faccio un uso così, insomma. No, adesso non esagerare, sei giovane. No, ancora. Ma poi io sai, non ho. Piuttosto di votare Grillo mi taglio le palle. Poi una volta disse che nel movimento di Grillo c'era una gran puzza di fascismo. Signor Bauro. Del guru Grillo, siccome è un guru nuovo, diciamo il livello di fanatismo è molto più elevato di quello che c'è nel PD. Io in questo movimento sento una gran puzza di fascismo. Allora ragazzi, ma la notizia su cui voglio che vi scatenate questa sera, che scatenate tutto quello che sentite, non necessariamente in negativo, cioè con la vostra rabbia, non necessariamente saremo così. Già, perché immagino non già. Necessariamente così, magari vi scatenate dicendo è giusto, l'Italia è un paese giusto, l'Italia è un paese dove le persone che hanno sbagliato possono recuperare, possono tornare anche dopo pochi anni in libertà, ed è giusto che sia così. La notizia è questa. Ricordate il caso di una romena che si chiama Doina Matei, uccise con un ombrello una ragazza di 22 anni, Vanessa Russo, anche lei era molto giovane, credo sotto i 20 anni, una signora romena, Doina Matei, che all'epoca era praticamente una sbandata, faceva la prostituta, eccetera, eccetera. Fu condannata a 16 anni, 2007, la vittima aveva 22 anni, morì a causa di una rottura di un'arteria cerebrale, cioè si conficcò questo ombrello nel cranio, esplosione dell'arteria cerebrale, morte. Allora, questo qua ha preso 16 anni, vi dico solo questo, ha preso 16 anni. Dopo 9 anni in semilibertà, cioè può passare tutta la giornata fuori a lavorare, la notte torna in carcere. È populismo assoluto. Io sto raccontando. Ma no, sto raccontando. Ma che raccontando? Come no? Ah no, dopo 9 anni torna in carcere. Non solo. Pubblica su Facebook. Eccola, vedi, pubblica, non stai raccontando. No, come no, sto raccontando a modo mio, certo, ho una posizione su questo. Però ecco, i fatti sono questi. Pubblica su Facebook delle foto in cui è al mare, col costume, sorridente, dove deve stare? Felice. Questi sono è i fatti. In semilibertà? Non ha diritto a usare Facebook? Questi sono i fatti. Lo usi tu Facebook? Non può usarlo la signora? Questi sono i fatti. No, allora io vi capire, dico una cosa. Vietato Facebook a chi è stato condannato? No, però io vi dico una cosa. Io vi dico una cosa. Tu dai un'ombrellata nell'occhio a una condannata a 16 anni, lasciamo perdere i tecnicismi, per omicidio, che sono importanti, per carità, per omicidio non volontario ma preterintenzionale. Così chiariamo i giudici dopo accertamenti, bene, processi, bene, tre carità. Gradi di giudizio. Allora, condannata a 16 anni, che per me è già poco, 16 anni, è già poco. Ma il diritto non lo fai tu, non lo scrivi tu le leggi. Allora, è già poco. Esce in semilibertà dopo 9. Aspetta, esce in semilibertà. L'Arabia Saudita è il tuo paese. Esce in semilibertà dopo 9. Vero, dopo 9. Si fa fotografare al mare sorridente e felice in costume. Ma non è che si fa fotografare. Si fotografa, si è. Aspetta, lavora fuori dal carcere. A morte! Se vi pare normale, adesso vedrai che pare normale. Adesso vedrai cosa succede adesso, vedrai. Vogliamo unire a questo una vedrai ottima. Chi chiama adesso? Vedrai. Vogliamo unire a questo un'ottima riflessione, chiamiamola così, fatta da Gramellini oggi sulla stampa? La vogliamo unire a questa cosa? Ci sono delle signore Rom che a Vicenza hanno preso. Ma quello che ha detto Gadlen, io sono d'accordo con quello che ha scritto Gadlen. Gadlen che ha scritto, ma sti cazzi. Potrebbe dire anche sti cazzi. Io sono d'accordo. Sono d'accordo con l'analisi di Gadlen. Totalmente. Non mi sembra una novità. Un omicida. Perché è ragionevole, civile. Ma la fai citare o no? Un omicida a cui viene concessa la semilibertà dopo 9 anni di carcere. Ripeto, un omicida a cui viene concessa la semilibertà dopo 9 anni di carcere ha il diritto di sorridere. Certo. No al finto sdegno, la pena non è vendetta. Questo è il signor Gad Lerner. Sì. Ripeto, una signorina. La pena non è vendetta! La pena non è vendetta! Ripeto, una signorina che si chiama ancora Vanessa che Russo. Si è fatta fotografare in spiaggia. No, io sto parlando della vittima. Mia, una signorina che si chiama Vanessa Russo. Certo. Il cranio esploso. Una arteria esplosa. Perché la questa cronaca, qua. La sobria cronaca? di Giuseppe Cruciani. Ma non me la sobria, la realtà. La sobria è una stranezza dire una cosa di Giuseppe Cruciani. Hai ragione. Avanti, forza, Marco. Però attenzione, forza Marco. Attenzione, pronto? No, fermo tutto. È una vergogna, maledetto. Parenzo, che ti sfondino il cranio. Grazie, grazie. Altra chiamata, poi fermi traffico. Tutti. Luca da Torino. Parenzo, assassino, che ti stuprino la mamma. Grazie, ascoltatore. Non traffico. Anticipare quello che accadrà, no, probabilmente. Sto dicendo la sceneggiatura. Fermo lì. Facendo quello che è comparso sul proscenio nazionale l'inno del movimento di Adinolfi, caro Parenzo. No. C'è anche no, un inno. Non posso reggere. Ti giuro. Ti giuro. Ma guarda che chiudo, vado via. Guarda che vado via. L'inno del popolo della famiglia. Ma non esiste. Io voglio imparare la memoria, eh. Tipo. Datemi le parole. Adesso, in uno degli intervalli numerosissimi che abbiamo, datemi le parole. Voglio cantarlo, dato che non posso cantare. Ieri mi sono anche esibito durante il concerto di Pupo. Mi hanno detto. L'orizzonte si aprirà. Intanto, caro Adinolfi, amico Adinolfi. Amico tuo. Hai fatto un inno. Paga le multe, come hanno chiaramente, mirabilmente raccontato le Iene, paga le multe per i manifesti abusivi di Roma. Credo che siano intorno ai 200.000 euro, secondo un calcolo. Iniziamo a pagare quelli e poi pensiamo all'aborto. Va? Dai, forza, dai. Paga le multe! Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo! Traffico. La Zanzara. Caro Adinolfi, prima dell'inno, paga le multe per i manifesti abusivi. Vabbè, 300 manifesti sono... No, è una cosa sbagliata, non bisogna farlo. Io andiamo in giro con una spilla di solito, non abbiamo i soldi per fare i manifesti. Se l'hanno fatto i ragazzi hanno sbagliato. Ma che è addosso la colpa ai ragazzi? No, no, la responsabilità è mia. Non so, cazzi, sai quanto andrà a pagare all'incirca? No, 255.000 euro. Addio, tutto a me. Altro che il popolo della famiglia, il popolo dei manifesti abusivi. Oh, più di così che devi portare a casa, su. Basta a chi ci dice che tutto è libertà, una cosa ghiacciante, e per i figli non c'è diritto. Ad una mamma e ad un papà! Non ne posso più! Due mamme, due papà, due zie! Basta! Questo deve... Che cazzo è questa roba? Non so devo dire. Aspetta, aspetta, aspetta. Parisoli, oggi ha detto... No, devo dare 100 euro all'azienda, ho detto sì, una 200 parolaccia. Adesso. Attenzione. Il mitico Adinolfi questa mattina da Milano ha detto che tutti i medici dovrebbero essere obiettori di coscienza. Cioè, in pratica, lui dice che tu... L'aborto... E dovrebbe essere abolito, questo lo sappiamo, ma tutti i medici oggi dovrebbero essere obiettori di coscienza in modo da impedire alle donne di abortire. Impedire alle donne di abortire. Questo è Adinolfi. Sì, stamattina. Io direi. Cioè, siccome io già direi... per me l'obiezione di coscienza, innanzitutto, va vietata. Bene. No, cioè, questo credo. No, chi. Allora, siccome è una legge dello Stato, se tu ti rifiuti di applicare una legge dello Stato, sì, e sei pubblico ufficiale come un medico, dovresti essere cacciato da quello. Andate nell'ospedale di Adinolfia. Di Adinolfia, della... Adinolfia? No, Adinolfia è un pianeta, no, il pianeta Adinolfia. Ah, ecco. Andate nell'ospedale del pianeta Adinolfia o della regione Adinolfia, dove voi siete tutti obiettori di coscienza, nessuno abortisce, fate tutti un sacco di figli, eccetera, eccetera. Va benissimo, ma se tu sei un medico in un ospedale della Repubblica Italiana, c'è una legge che prevede l'aborto, tu costi quel che costi, mi fai sto cazzo di aborto. Chiaro, Adinolfi? Via. C'è il diritto per un medico di fare obiezioni di coscienza. È che sono un po' troppi, secondo il Consiglio d'Europa. Io sono vorrei un po' che troppi. Il 100% dei medici che fanno un giuramento che si chiama giuramento di Ippocrate, in cui giurano di non somministrare mai medicamenti che costringano, che causino la morte, ora mi piacerebbe che il 100% dei medici fossero obiettori di coscienza. Ma chi l'ha fatta sta canzone? Sarebbe curioso di capire, eh? Sarebbe curioso capirlo, sì. Sarebbe curioso, eh. alzati e cammina. Vabbè, dopo la cantiamo bene. L'avrà fatta Bertone. La cantiamo bene dopo, dai. Forse. Tarcisio Bertone, Alessandro da Roma, iniziamo. Iniziamo, dai, Alessandro da Roma, Parenzo. Alessandro da Roma, dai. Pronto, pronto. Vai, vai, vai, dimmi. Prepariamoci, dimmi. Con la corazza. Pronto, Cruciani, mi senti? Dimmi, dimmi. Mi metto l'antisputo e mi preparo. Io ho sentito che stavate a parlare di Grillo, che dava da mangiare i grillini. Sì, io sì, amico mio, aspetta. Ho mangiato grilli, cavallette, tartarughe. Sì, ma hai il viva voce, amico mio. Amore, hai il viva voce, tesoro? Cruciani, non ce l'ho. Ecco, Alessandro, sì, dai, forza. Stavo dicendo, ieri parlavo. Niente, dai, Francesco da Napoli, dai, Francesco. Buonasera. Dimmi, dimmi, posso Francesco. Posso fare due domande? Tu fai quello prima che ti pare, basta che sei rapido, vai. Ecco, sì, è rapidissimo. Tu sei un piromane. Io sono un? Piromane, quello che mette fuoco. Piromane, piromane, sì. Sì. Cazzo mi preso? Tu rispetti le leggi. Dimmi, sì o no, rispetti la legge. Beh sì, ma infatti, però uno può pensare anche che possano essere cambiate le leggi, eh? Cioè, può sì, anche pensare che si debbano cambiare. Esiste una legge che si chiama legge Gozzini. Sì, ma lo so benissimo, lo so benissimo. In galera. Sì. E allora perché devi fomentare? Perché secondo me molte cose vanno eliminate. Non è possibile che una persona che provoca la morte di una ragazza di 22 anni con un ombrello conficcato nel cranio faccia le foto su Facebook, dove peraltro ancora in galera formalmente, e dopo 9 anni abbia la possibilità di passare tutta la giornata fuori dal carcere. Per me è giusto, ma l'inserimento, ci crede all'inserimento? Vedi, Parenzo, che invece abbiamo trovato un amico tuo? Invece, ma non è un amico tuo. Ma tu ci credi all'inserimento? Dimmi una cosa. Io ci credo. Ci credo, sì, ma dopo persone civili esistono. Dimmi una cosa. Dopo una serie, ma sì, lasciamo. Dopo un po' di anni, secondo me sono troppo pochi gli anni. Ma poi sono 9 anni, sono troppo pochi. Ah, vabbè, uno ha ammazzato una persona a 9 anni, ma va bene. Ma te lo ricordi l'episodio di cronaca da che cosa è nato? Ci sono diverse specie di reato, uscire tutti, ma tu non lo vuoi sapere. Facciamo, ma te lo ricordi da che cosa è nato? Certo, come no, me lo ricordo benissimo. Sì. È nato di un episodio di razzismo. Ma non c'era nessun episodio di razzismo, è stata spintonata. No, ma non è vero, non è vero. Vabbè. Comunque, al di fuori di tutto, sta ragazza sta ascoltando. 9 anni, sta facendo un percorso di inserimento, perché tu la devi buttare nel fuoco? Ma io non sto dicendo che non deve finire nel fuoco. Tu istica a Pasquale di Torino, a Rocco, tutta questa gentaglia che butta veleno della bocca. Gentaglia, bravo, Francesco, bravo, Francesco, bravo, Francesco, scusate, bravo, potrò pensare senza volere che la ragazza romena vada buttata nel fuoco, che se tu ammazzi una persona per omicidio, quello che è, non volontario ma il grado inferiore, che è preterintenzionale, tu debba passare almeno una ventina di anni rinchiusa in galera? Sì o no? Ha fatto quel reato, questa ragazza era una schiava sessuale, sta povera ragazza. Sta povera ragazza, ammazza una persona con una... Hanno trovato l'orso anche oggi, ragazzi. Ti rendi conto? Vabbè, bravo. Francesco, ma tu la pensi così? No, ma c'è umanità a questo mondo. Adesso noi siamo i cattivi. Ma non siete cattivi, tu sei un demagogo populista. Io mentre sono un demagogo populista. Ma sì, che vedrai quelli che ecciti che adesso chiamano, che chiaramente saranno colpiti da questo. Allora, questa persona stupenda, questa bella persona che ha aperto questa strana. Ma io mi chiamo sempre, bravo. Signor Parenzo. No, io ma bravo, ma si capisce anche. Io lo sento anche dal tono pacato e argomentativo che utilizzi, non urlato, non capito, riflessivo, che prova a parlare non solo alla pancia, ma io infatti non sto dicendo che è un criminale, Francesco. Il cranio spappolato. Sto dando una notizia. Il cranio. Beh, sì, quello è successo. L'arteria è esplosa. Sto semplicemente dando una notizia. Franco da Torino. Allora che ti stupino a casa tutti. Allora, Carlo da Ravenna, ciao Francesco. Allora, non c'è Piero da Cuneo. Piero, vai. Piero da Cuneo. Allora, ti volevo dire che ieri a Forum alle 14. A Forum, sì. Sì, c'era un chirurgo plastico, non parlavano di operazioni, no? E questo ha detto che in un convegno di chirurgi ha detto che moltissimi di loro non vogliono operare vegani perché a causa dell'alimentazione sballata che hanno sono carenti delle sostanze che servono per permettere alla ferita di cicatrizzare. No, non ho capito bene, approfondiamo però la questione. Cioè, questo chirurgo plastico, questo avrebbe detto che non operino i vegani perché non si rimargino le ferite? Sì, che in un convegno di colleghi ha detto che... E inoltre ha detto che chi fa la dieta vegana per i bambini è un criminale. La adesso, non l'ha approfondito. Adesso verificheremo, Piero. Toni da Milano, vai, Toni. Pronto? Dimmi, Toni. Allora, io sono per la libertà assoluta di quella mezza delinquente lì romena, che ha messo l'ombrello nell'occhio, ma all'isola di Montecristo la lascio là a vivere da sola per tutta la vita, oppure ripristiniamo l'altra isola, quale isola? Quella isola. Vabbè, Tony, ti chiamo dopo alle 19:15 perché questa cosa di Monte Cristo, cioè l'isolamento a Monte Cristo, è interessante da approfondire. Tu dici andrebbe messa in carcere, in isola, in libertà, ma da sola sull'isola di Monte Cristo. Magari a questa gli piace pure andare a Monte Cristo, no? Bellissima isola, il mare è stupendo, meraviglioso. A tra poco. Vi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13:45, hashtag autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13:15, container, con Massimo De Donato. Il segnale orario vi è offerto da... Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Inizia la settimana della moda. Il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale. Nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. La Zanzara. E ieri ho parlato di dieta zona, oggi ho fatto due chiacchiere in amicizia col figlio di Totò Riina, e domani ho in programma l'intervista con il nipote di Hitler. Parleremo molto di acquarelli, baffetti strani, certo poi al nipote di Hitler farà anche delle domande scomode, molto scomode, per esempio, e chiederemo che dieta faceva il nonno quando sterminava tutti. È bellissimo, naturalmente. Alto, basso. Voglio portare Hitler su Rai 1. Sì, lo voglio. È una droga. La televisione è una droga. Voglio portare anche la droga su Rai 1. Questo era uno stupendo Crozza che imitava prima Vespa e poi Freccero che gli dà ragione, meraviglioso. Alto, basso, alto, basso, stupendo, Hitler. Vabbè, stupendo, meraviglioso. È una delle migliori di quest'anno, devo dire. Una delle migliori di quest'anno, devo dire. Una delle migliori di quest'anno. Vespa, sì, molto buono, molto buono. Vespa che alterna Hitler, ovviamente, nella satira. Mi portate, scusa, un po' di acqua fresca, fresca, chi, un po' di limone. Acqua fresca, chi lo stai chiedendo? Scusa, no, non ho capito. I servienti di Radio 24, sì, sei impazzito. Sì. Sei. Sono portato alla Filippina. Ma dai, su. Ma mi dai. Porta per cortesia, immediatamente. Immediately, please. Che fai ti sei portato la Filippina dietro? Sì, dai, certo. Sì, sì, sì. Immediately. Anche tu hai la sguattera del Guatemala, mi sa. Anche no. Tu hai la sguattera del ne Guatemala. Ne uso quei termini. La sguattera del Guatemala. Non mi appartengono. Lo sai la cosa linguaggio più incredibile? Che poi accusano media di utilizzare un linguaggio, no? Il turpiloquio, questa cosa qua. Adesso, ragazzi, diciamo la verità. Adesso mi hai fatto venire in mente una cosa. Vedi, le cose poi preparate non funzionano. Ma secondo te un cazzo o un vaffanculo detto qui alla Zanzara a Radio 24? Io non lo dico che più. Cos'è più offensivo, questo oppure un ministro che dice, un ex ministro in questo caso, una persona tutta perfettina, precisa, no? Apparentemente che dice no, mi tratti come una sguattera del Guatemala al suo fidanzato. Eh? Ma sicuramente che cos'è più violento? Sicuramente la seconda che hai detto. Bisogna dire che quella è un'intercettazione, invece qui è una cosa voluta, esatto, in pubblico. Bravo. Detto questo, il linguaggio privato di certe persone che apparentemente sono, no, tutte, no, perfettine. Ma si chiama, eccetera, appunto privato, quindi nel privato posso dirti beh, le peggio amico, cose. Beh, però io sguattera da Guatemala non lo utilizzo come termine, eh. Al limite posso utilizzare la parola sguattera. No. Ma sì, parlando, no, quando si usano certe parole nei confronti della tua amante, della tua fidanzata a letto, no? No, che io cosa ho mai detto. Ah, tu non usi il turpiloquio quando no, non usi, ma non prendi a parolacce, eh. Beh, ottimo, no? Ogni tanto l'ho no, fatto, sì. Non mai fatto, però mai fatto mi queste apri cose. Un mondo, effettivamente. Beh, mi apri un mondo, io. Ma beh, no. Beh, beh, beh. Ne parliamo però più avanti. Sì, che no, dici? Ma immagino faremo un focus approfondito, immagino. Schiameremo qualcuno, certo, non c'è dubbio. Io dico una cosa, a proposito della libertà di Adinolfi. Qui è un paese strano, ad Acerra. Io di Adinolfi non voglio più sentir parlare fino a quando non ha pagato la multa. No, io voglio il pianeta Adinolfi, sì. L'ho detto già. Pianeta Adinolfi. Chiamiamolo un attimo. Dove tutti, dove tutti gli obiettori di coscienza si possono radunare. Perché ti ripeto, chi non vuole praticare l'aborto, che è una legge dello Stato, un medico che non vuole praticare l'aborto deve essere cacciato dall'ordine dei medici. Questo non lo so. Tu sei un medico, c'è una legge dello Stato, sì, pratichi l'aborto. Però sai, fai il ginecologo, io che pratichi l'aborto. Io che sono a favore dell'aborto, troppo comodo, ovviamente. Troppo comodo. Però difendo l'obiezione di coscienza, perché... Ma scusa, ma chi lo prova che tu sei cattolico, che non vuoi fare l'aborto? Perché adesso non so su quali basi si possa essere obiettore di coscienza. Chi lo prova? Uno può dire anche, certamente praticare l'aborto può essere una cosa non piacevole, ma anche operare una persona, che ne so, che è gravemente malata può essere non piacevole. Beh, cioè, questo è la stessa cosa. Uno non fa il medico. E appunto è quello che dico io. Siccome essere medico significa applicare le leggi dello Stato. Ma è un discorso etico. No, non lo accetto. Come non accetto che ci siano dei comuni che per motivi, come dire, di soldi, di quattrini, vogliono rifarsi su delle persone che liberamente scelgono di andare a puttane. Succede spesso in alcuni comuni italiani, con risultati secondo me per le casse del comune zero, risultati per le casse del comune quasi zero, e risultati invece pessimi per quello che riguarda la vita familiare delle singole persone. Ho capito, ma se vai a prostituta ti becchi la multa a casa, vecchio. Ah, così, ti multi, ma chi l'ha detto che ti becchi la multa a casa? No, chi lo so, l'ha me detto? Lo auguro che la mandino a casa. Te lo auguri, vabbè. Vai allora a prostituta. No, perché? No, perché c'è la multicina, devi avere la responsabilità di quello che fai. No, ti arriva la multicina a casa, la moglie ti aspetta col bastone nodoso e ti dice: amore mio, dov'eri ieri sera? Ieri ero a balbettare. Ieri ero a Radio Padania. Come a Radio Padania, amore? Dov'eri ieri sera? Vabbè, stai dicendo 22? Quelli di Radio Padania sono dei puttanieri, non ho capito. Non lo so, ho preso Radio Padania a caso. Dov'eri ieri alle 22:44? Ma no, ero in via Bellerio alla sede della Lega. No, alle 22:40 non eri alla sede della Lega. Ma sì, c'era un dibattito con Marin e c'erano i negri e parlavamo di prostituzione. Di cos'è che parlavi? No, volevo dire di negri, di Rom. E cominciava a balbettare: Rom. E questa cos'è, amore? E gli mostra la multa e comincia a randellarlo. Ecco che fine fai, altro che i migranti. Tum. Questo deve essere così. Che schifo. Ad Acerra vogliono fare la stessa cosa, sempre i soliti 500 euro. Acerra, giusto. Provincia di Napoli. O Caserta, non lo so. Tony, vai. Tony, era quello di prima, dai. Pronto, sono qua. Che vuoi dire? Allora, dicevo, la signora lì che ha conficcato l'ombrello nell'occhio, quella lì che è morta. Sì. Libertà assoluta all'isola di Montecristo. Prende il sole, sì. Un po' di sementi, si fa il suo cortile, si scava le cose, fa ecco le discoteche. Poi? Tu di là, lei, i Roma, tutti. Che arrivano con i barconi, li mandiamo lì. Anche quelli con i barconi, tutti insieme. Eccolo qua. Tutti quanti, tutti insieme. Cioè, lei vorrebbe prendere tutti quelli che arrivano in barconi e radunarli. Tutti senza distinzione. Parenzo, Cristina Mona, tardi tu. No, allora, non parlo con lei, è troppo ebete, non posso parlare. È troppo ebete, non posso parlare con uno così. Via tutti insieme, morale, dai, tutti. Morale, tutti zingari, tanti, rom, negri, tu, cruciani, tutti quelli che mi sta sui coglioni tu, e li mandiamo dentro lì, dai. Vai avanti. Poi morale, avanti, sentiamo. Ma cosa poi? Cosa c'è in più? Parlo con lui, tu sei Cristina Mona, per cui. Sì, sì. Parla con Cruciani. Morale. Parla col tuo simile. Vabbè, poi morale. Morale, andata senza ritorno. Morale, andata senza ritorno. Lasci i sementi, si coltivano quello che vogliono. Cioè tu devi fare un'isola per immigrati, roba, per tutti, ma è una cosa un po' diversa. Gli immigrati si fece, l'Australia è nata così, infatti. L'Australia è nata come isola di criminali. Proposta di Tony da Milano. Vai, Giovanni da Napoli. Buonasera, Cruciani. Dimmi. Salve, buonasera. No, volevo solo fare questa domanda. Ma perché ce l'ha così tanto con la famiglia? Diciamo, con la famiglia? Io non ce l'ho per niente con la famiglia, figuriamoci. No, diciamo, la famiglia non possiamo nemmeno chiamarla normale, perché comunque è una famiglia, cioè, dove siamo derivati, cioè siamo venuti tutti, no? Siamo nati tutti da una mamma e un papà. Che poi ci sono queste, diciamo così... come dire, che c'è? Ci sono questi vizi, queste diciamo deviazioni, così. Diciamo, queste no? deviazioni, queste ecco, malattie, chiamiamole diciamo. Pure malattie, dai. Ci sono, no, malattie no, malattie no. Deviazioni, per però sono, sono deviati, Froci, dai. Malattia no, però con una coscienza, come dire, magari portata verso la famiglia, diciamo verso sì. La provenienza, perché io credo era un che po' anche... di tempo che non facciamo una discussione sui gay, caro Marenzo. Allora Giovanni, ma che vuoi, che vuoi? Non ho capito qual è il punto. Anche le persone, diciamo, gay comunque sono venuti da una mamma e un papà. Non vabbè, è che questo sono sicuro. Altre persone gay. Questo non c'è dubbio. Poi intelligente questo qua. E poi vorrei dire, cioè, se c'è qualcuno che fa qualcosa per la famiglia, che lo sto facendo un Adinolfi, lo sto facendo molto bene, sì. Perché lo dobbiamo, come dire, contrastare? Ma potrò non è potrò non essere sopra la canzone Giovanni potrò non essere d'accordo con quello che dice il signor Adinolfi quando vorrebbe un mondo fatto da medici tutti quanti obiettori in modo da eliminare la legge sull'aborto, sì, potrò non essere d'accordo quando dice in quella meravigliosa canzone che voglio fare diventare l'inno della Zanzara praticamente per me, famiglia è sempre quella formata da un uomo e una donna, potrò non essere d'accordo, sì o no? Ciao sì, amico mio sì, Simone da Vicenza vai Simone. Arriva Simone. Luca da Torino, allora, vai. Giuseppe. Dimmi Luca. Ciao, sia a te che a David un caloroso abbraccio, veramente siete i numeri uno. Vabbè che non ti piacciono i complimenti, ma volevo chiedervi, visto che entrambi non siete vegani o vegetariani, come la condisco questa sera la coda di cavallo? La coda di cavallo? Non lo so, amico mio, penso con l'olio si possa condire tranquillamente. No, però scuole di pensiero, c'è chi la condisce con scaglie di parmigiano, sai? Non lo so, io la carne di cavallo per me è una carne come un'altra. Perché vuoi un consiglio da me? Chiami qualcun altro, c'è cioè un consiglio da me su come condire la carne di cavallo. Non lo so, bisogna. Non lo so, amico mio, la carne di cavallo. Non lo so, ho pensato a voi. È un po' di mangio stasera. È un po' di tempo che non la mangio la carne di cavallo, perché la carne qui ottima. Lo so, ma è meravigliosa la carne di cavallo, è stupenda, ha anche un sapore un po' più dolciastro rispetto all'altra, no? Bravissimo, un po' più dolciastro, molto ferro, c'è cioè la carne di cavallo è meravigliosa, ferro. Stupenda. Però il condimento mi sembra che sia uguale alle altre, è come mangiare un carpaccio, diciamo, no? Lo puoi condire con la rucola, col parmigiano, con un po' di olietto. No, a crudo, tutta roba genuina, ottima, cioè, eppure c'è gente che vorrebbe proibirla. Vabbè, Luca, cosa mi vuoi di più? Bene, dai, mi voglio bene. Anch'io, ciao. Dai, forza. Grazie. Alex, ciao. Torino, vai, ciao. Vai con Alex da Torino, vai, Alex. Buonasera. Dimmi. Buonasera. Io volevo ritornare sull'argomento di quella donna che ha ucciso quella con la Sì, con sì, l'opera. vai, dimmi. Allora, io volevo solo dire questo. Senza che ci arrabbiamo il signor Parenzo. Allora, il signor Parenzo dovrebbe solo mettersi, quando dice così, nelle condizioni di pensare che fosse sua figlia. Eccolo qua. Lo aspettavo, Certo, lo aspettavo. Allora, Parenzo, tu mi dovresti dire. Lo aspettavo. Fallo parlare. Se il tuo giudizio fosse lo stesso, se la persona che è morta, non pensiamo a quella viva, ma a quella morta, fosse tua figlia, allora tu mi dovresti dire. Lo aspettavo. Avresti lo stesso. Fermo lì, Alex. Fermo lì. La Zanzara sono le nostre 2 ore e mezzo di libertà quotidiane. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Rogiane, ha rotto la minchia, hai capito? La deve smettere di andare contro gli animalisti. Crogiane, penerai KO, t'ha accisa Crogiane! Beh, caro Parenzo, io credo che una delle notizie però di questa sera sia quella che è stata testé diffusa, anzi qualche ora fa, dal sito Dago Spia. Hai letto, sì, con attenzione, quei cuori infranti, quel cuore spezzato in due. Da una parte il signor Sallusti, che tu mirabilmente, sì, mirabilmente rappresenti, dall'altra la signora Santanchè. Pare, sembra, si dice, per carità, noi non ci auguriamo il male di nessuno, anche storia, se le separazioni fanno parte. È una storia tristissima. Ma come? No, vabbè, ragazzi, ma le persone si possono lasciare. Pare che si siano lasciate. È una storia terribile. Ma perché piange? Adesso li pidi per il culo non così. Si possono dividere la Santanchè e Sallusti. Perché non si possono dividere? Scusa. Con chi si mette la Santanchè col direttore dell'unità adesso? No, ormai. Ma che c'è? Il direttore dell'unità? No, no, ma quello vabbè, no. Tanto. E con chi? Come? Cioè, stavamo così bene insieme. Una randellava dal Parlamento, l'altro dal giornale. Era una coppia. Cioè tu sei dispiaciuto perché cosa? Cioè, sei dispiaciuto non c'è perché più questa nitroglicerina insieme che erano una, capito, come Bud Spencer e Terence Hill come Bud Spencer e Terence sì, Hill erano una coppia, non ce la faccio a trattenere il dolore, era una coppia perfetta, Bud Spencer e Terence Hill come se, capito, ma potrebbero cambiare finito. Però potrebbero cambiare i titoli dei giornali, però il titolo del giornale domani mattina potrebbe cambiare. Cioè potrebbe cambiare. Beh, improvvisamente, certo. Che naturale, dico? Naturale. Cioè? Come avete, beh, come guardi, titolate domani? Guarda, quello stronzo di Pisapia della sinistra mi ha fatto abbandonare a Santanchè. Cioè questo è quello che è avvenuto. Hanno raccontato così Santanchè poco? Io pensavo che facesse Santanchè boia, una cosa del genere. No, questo ancora non possiamo dirlo, anche se abbiamo delle prove che è stata nelle Brigate Rosse, si sente anche, però non possiamo. Che Brigate Rosse. Abbiamo dei documenti che pubblicheremo nei prossimi giorni. Adesso tu stai prendendo per il culo due persone che magari soffrono per questa apparente separazione. Ma noi dai. Per primi. Dai, su, dai. Ragazzi, dove andiamo? Dove andiamo? Anzi, voglio farvi ascoltare un signore, sì, che è stato pizzicato da non mi ricordo quale trasmissione. Un signore, pare, un convertito napoletano all'Islam. Un convertito. I convertiti sono sempre i peggiori, in tutti i casi. Sempre i peggiori. In genere sì, questo purtroppo devo darti ragione. Signor Abdullah Ferdinando. Senti, beh, senti Ferdinando, che perso. Si chiama Ferdinando, non Abdullah. Sì, beh, insomma, si è ribattezzato, si è richiamato. Ah, come Abdullah, rinominato all'Ampero. Esatto, lui invece Ferdinando. Cioè, vale anche nel contrario, non soltanto perché esatto. Abbraccia all'Islam, vale Ferdinando anche... Abdullah Ferdinando. Senti, senti. È un paese che seguisse la Sharia sarebbe un paese dove, tra virgolette, perfetto. Però la Sharia comporta anche la lapidazione delle donne. Sì, del sì, sì, sì, certamente. È vero, per noi chi uccide deve essere punito con la stessa pena. Signor Ferdinando Abdullah, un napoletano convertito all'Islam. Poi giustifica i fatti di Parigi, senti come anche. Reazione, signor Ferdinando Abdullah. Pizzicatelo questo, amici miei della polizia, ma in fin dei conti voi non è che per adesso non ha fatto niente, ha semplicemente detto delle follie. Che ne pensi di quello che è successo a Charlie Hebdo? Se tu poi sistematicamente offendi una persona, e parlo del profeta, la pace sia su di lui, sapendo che io per me è una cosa gravissima, lo fai sistematicamente, scusami, ma non posso che dire, ribadisco che te la sei cercata. Che la sei cercata? Certo. Cioè perché fai vignette su Maometto ti sei meritato la morte. Quando uno ti ha avuto anche il buon gusto di avvisarti e tu continui, ho capito. Tu giustifichi quello che è successo in Francia? Io giustifico la reazione. Mo se la reazione la reazione ha portato a dei morti però. Pazienza, cioè voglio dire, sapevi con chi aveva a che fare. Quello che è successo a Bruxelles però insomma. Perché, cioè, quando l'Occidente fa un calcolo che a me non piace fare di quantità di vittime, si scorda delle sue. Beh, diciamo che abbiamo fatto il pieno col signor Ferdinando Abdullah. Era l'ottimo Bertazzoni questo di Piazza Pulita. Vabbè, diciamo, questo chi va. Se ne frega. No, vabbè. Però bisogna anche citare. Dire, bisogna anche citare la meravigliosa performance questa mattina di Filippo Facci contro il solito vassallo, che ormai è diventato. Abbiamo fatto diventare. Visto? Dov'era l'ottimo beh, Facci? Credo Mattino 5. Facci contro il nostro amico vassallo, che purtroppo devo dire abbiamo fatto diventare questo signore. Creato un mostro. Ho creato l'ennesimo mostro, sì, un personaggio televisivo, a parte che uno che è vegano eccetera eccetera combatte per un mondo più giusto, poi va ospite spesso nelle trasmissioni, vabbè, eccetera eccetera, a combattere. Comunque vabbè, comunque senti Facci vassallo, senti. Questo processo culturale che lentamente va bene, viene avvantaggiato o svantaggiato dai coglionazzi come te, scusa. No! Che vanno. No! che vanno. Ma hai usato però, giri di parole. Anche perché tu lo ammetti, sabotare, violare la legge, andare sotto, sotto la radio, sotto casa della gente, parentesi, vieni sotto casa mia, poi vediamo. Ma e il punto cosa è, fai se vengono sotto questa, casa cioè, tua? Uno vede, voi, scusate, si va a mangiare un cheeseburger. Beh, giustamente, se tu vedi Vassallo in faccia o vedi questi animalisti, vai al primo McDonald's un po' voglia e fai viene, il carico, dai, sì. Fai il carico, dai. Io coglionazzo io, però coglionazzo anche il giornalista che disinforma. Io no, cosa perché? Ho detto di sbagliato? Ho disinformato? Sì, perché la informazione è... Ma io ne discuto con Umberto Veronesi, no, non con te, ascolta, capisci? Poi ci lamentiamo, ma il latte fa male, sono intollerante al latte. Ma chi vi ha detto di bello a 50 anni il latte? Di cosa parla Vassallo? Cioè, di cosa parla il perché latte? Perché adesso non si può neanche bere il latte. No, per Vassallo, beh, no, perché chiaramente viene dal bovino, no. Ma senti quest'altra roba qui. Io bevo qui. Tutte le mattine il latte. L'ottimo Facci come l'ha incastrato, sentilo, sentilo, sui trucchi, che si è andato a truccare, no, senti. Ma se cominci a dirmi che è assassinio sfruttare gli animali in tutte le sue forme, allora io ti dico, prima ti ho incontrato su... A che mentre ti facevi truccare ti dico che i trucchi sono al 90% di origine bovina. Infatti io ho detto ma non possiamo venuto, evitare. Se sei venuto qua con un mezzo motorizzato, l'olio che c'è nella macchina è fatto con elementi di origine bovina. Dai, questi se fossero coerenti non potrebbero campare, questa è la realtà. Cioè non potrebbero campare, dovrebbero isolarsi dal mondo. Invece utilizzano anche... Che non sarebbe neanche brutto che si isolassero dal mondo alla fine. Non è che uno uno sente la mancanza, dice che oggi mi manca Vassallo. No, dubito che ciò accada, no? Con chi eravamo, Alex, vai. Stavo appunto dicendo che quando una persona... giustifica gli assassini è sempre dalla parte, nel senso che la sua mente e il suo cuore sono liberi, nel senso che io parlo ma non è successo a me. Io vorrei mettere nelle persone che succede un fatto del genere, penso che ci sia un dolore così profondo a subire la morte di un figlio, di un sì, però di una questo figlia. Lo sappiamo, Alex. Lo so, però chi subisce, chi subisce un dramma, chi subisce un dramma allora, è chiaramente allora, incazzato prima, come una bestia, prima, molto di più di quanto lo possa essere uno come allora, noi. Signor Parenzio, o chiunque per lui, cioè tutti che questi noia. Ci dobbiamo immedesimare nella noia. Famiglia di quelli. Che dovrebbe noia. Succedere a te, Parenzo, che dici eccolo che qua, noia. Ma lo aspettavo il Pirla, lo aspettavo al varco il Pirla, lo aspettavo. Non è rispetto per senta, i morti. Da noi non si chiama stato di diritto il fatto che una persona che è stata condannata con sentenza definitiva e che ha scontato 6 anni, 9 può, sei anni. O 9 in questo 9 caso, su 16, troppo può poco. Uscire su permesso, tornare a dormire in carcere e lavorare, perché la pena si chiama rieducativa nel nostro sistema. Non troppo le piace, poco. Ciappa il camel, ciappa il valigia e vai in Arabia Saudita, dove lì ci sono altre regole. Vai ciappa, lì. Ciappa il camel, lo diceva il mitico Prosperini. Esatto. Ciappa il camel, ciappa il barchetta e vai in Arabia Guarda Saudita. Guarda che l'unico che può prendere il cammello sei tu e tornare al tuo paese. Ciappa il mio paese è l'Italia, amico mio. Il tuo paese è l'Italia. Allora vedi che parli male, non sei italiano. Ciappa il camel. Adesso, ciao. Daniele Pescara, vai Daniele. Ciao Giuseppe. Vai, dimmi. Ciao vai. Parenzo, io sono ciao, d'accordo con Parenzo. La funzione rieducativa della pena è al primo posto. Sì, vabbè, anche se succedesse a mia sorella. Sì, però prima ti fai 30 anni e poi ti rieduchi. No, non ti fai 30 serve, anni. Serve anche. Per... Sì, come no? Se hai ammazzato uno, ti fai 30 anni. Secondo me sì. Va fatto un percorso. Ma se volete. Se vi piace. Sì, anni. Ma se vi piace. Qui è un altro discorso. Se vi piace un sistema in cui uno. Condannato per omicidio per dell'intenzionale, una che ha messo una un punta di un ombrello nella testa di un'altra persona morta a 22 anni, dopo 9 anni si fa fare le foto, si fa le fotografie che, su Facebook, ma cosa c'entra le fotografie? In costume, ma guarda, esce dal carcere tutto il giorno, se ma vi che piace così le fotografie? Se vi anche ti risulta che in un altro paese persone condannate a 16 anni per omicidio facciano le foto su Facebook nude, ti risulta? Sì, a me non risulta. Poi fate sarà come dici tu. Daniele, che volevi dire? Foto? Come? Il problema sono le foto? Anche, ma perché un sistema. Ma cosa c'entra allora, le foto? A proposito di ma foto, che sei un bel demagogo, Daniele, ma a proposito di foto, giustamente qualcuno nota che nei giorni scorsi, lo dicevo all'inizio della trasmissione, un gruppo di bambini, possiamo dire così, di bambini romeni, hanno preso un Massimo, credo quello più grande, aveva 15-16 anni. Hanno preso un tombino a Vicenza, hanno sfondato la vetrina di un negozio, niente di grave, per carità. Sono criminali, ragazzi. Certo che sono criminali. Hanno preso gli iPhone, l'hanno rubati, l'hanno pizzicati. Dopo un interrogatorio in generale alla centrale di polizia e tutto, questi qua si sono fatti fotografare con uno che faceva il segno della vittoria, gli altri pollice alzato, cioè, capito? Prendono per il culo. Prendono per il culo perché sanno che tanto non succede niente. Ora, ovviamente, questi non è che devono andare in galera tutta la vita, ma giustamente scriveva, credo, Gramellini stamattina sul giornale, sulla stampa, che almeno un po' di mesi a pulire i cessi da qualche parte. Va bene. Certo, dovrebbero fare. Ma benissimo, ottimo, Gramellini ha ragione. Certo, appunto, ma questa è però la fotografia dell'Italia. Cioè, questi qua che esultano, è perché sanno che sono impuniti, che non succede niente, nemmeno il minimo indispensabile. Nessuno vuole catacombarli in prigione, quelli che rubano un negozio, che tirano un tombino contro un negozio e sfasciano la vetrina e rubano gli iPhone. Nessuno vuole mandarli in galera. Ma che per un paio di mesi tu pulisci la merda degli anziani, giusto, che serve? Giustissimo. Beh, sì sono o no? D'accordo con allora, te. Vai. Sono totalmente d'accordo. Più Parenzo, meno Cruciani. La Zanzara. Cruciani, sei un mito, cazzo. Sei riuscito a scatenare la terza guerra mondiale contro i vegani. Io sto con te. Allora ragazzi, detto che la cosa più bella di oggi è che Razzi, il nostro amico senatore Antonio Razzi, ha pronti 500.000 gatti asiatici per sconfiggere i topi di Roma. Credo che sia una delle più grandi trovate mediatiche dell'ultimo decennio. Questo, 500.000 gatti asiatici, 500.000 gatti asiatici per sterminare i topi di Roma. È un'ottima idea questa. È ancora candidato, credo, sindaco a Roma, signor Razzi, ma più tardi lo sentiremo, non ti preoccupare, perché è andato al ricevimento dell'ambasciata nordcoreana. E io credo che chiederà all'ambasciatore i gatti, perché li vuole portare, immagino, non lo so, dalla Corea del Nord. Detto questo, sentirei però l'avvocato della diretta interessata, della signora Romena, che fra poco, adesso forse tornerà in galera tra poche ore. Ma intanto ha passato tutta la giornata al lavoro, magari si è fatta fare qualche foto ancora in posa a Venezia o non so dove, oppure al mare, no, è ancora presto, è aprile. Insomma, ha passato la sua giornata tranquillamente a lavorare in una cooperativa, rientra in carcere e intanto c'è un morto di 22 anni e la famiglia non sarà contenta forse di questa soluzione all'italiana. Come ma dice Parenzo, è la giustizia. Ma ragazzi, ma che ti rendi conto di quello che stai dicendo? L'avvocato non si chiama... Non è la giustizia, com'è che si chiama, ragazzi? È lo Stato di diritto. Marazzita, uno chiamiamo, dei più grandi penalisti italiani. Chiamiamo, Nino Marazzita, stai grande zitto penalista. Che lo chiamiamo. Sì, pronto. Avvocato, buonasera, sono Cruciani, come sta? Bene, lei come sta? Beh, me la cavo, combatto come ogni giorno. La vedo. Avvocato, le pare normale che una che ha ucciso una ragazza di 22 anni dopo 9 anni è già in libertà? Semi libertà. Allora, non in libertà. Semi libertà perché in questo paese, che ancora è un paese che ha uno stato di diritto. Esatto. E vabbè, ma che c'entra? In questo paese è previsto. Sì. E quando si ha una buona condotta, quando attraverso relazioni continue degli assistenti sociali, degli psicologi, eccetera. Sì. C'è il recupero della persona che ha fatto che ha commesso un delitto. In questo però caso, questa persona va in semilibertà. D'accordo, questo lo sappiamo. Cioè, nel senso non è che naturalmente deve. No, può anche non scontare la pena fino in fondo. Ho capito, ma questa qua ha ficcato l'ombrello nell'occhio di una persona. No, non l'ha ficcato volutamente. Questo ha messo l'ombrello in un modo orizzontale. Sta dicendo la dinamica. Io ho fatto due processi. Scusi, mi sta dicendo che è la vittima che è andata incontro all'ombrello? La vittima è andata in fondo verso l'ombrello. Appunto. E la ragazza ha tirato, ma senza mirare, senza la volontà di uccidere. Vabbè, d'accordo. Per difendersi. Scusi un attimo, avvocato, però i giudici che sono impazziti, perché l'hanno condannata per omicidio per intenzionale? Perché è morta alla fine la persona. I giudici l'hanno condannata perché c'era un clima feroce contro questa ragazza. Ma cioè, sta dicendo che i giudici che non ho visto mai, che per la prima volta l'ho visto poi trasferito nei magistrati. Cioè, sta dicendo che l'hanno condannata in quanto extracomunitaria? Il fatto di essere extracomunitaria è inciso perché l'extra comunitario era un periodo storico in cui si portava dietro l'odio e la disapprovazione dell'Italia, di tutto il paese. Cioè, se non fosse stata romena, se non, se non fosse stata romena, non avrebbe avuto quel tipo di condanna. Sicuramente no. Hanno voluto seguire più che altro l'atmosfera razzistica che c'era nel paese contro gli extraterrestri. Beh, ma questa è un'accusa pesante ai giudici, comunque vabbè. Che l'ho fatta. Ma questa qua ha pubblicato le foto su Facebook. Ha diritto. Ma sì, ho capito, foto su Facebook, al mare, in bikini, al mare, col costume. Lega quello che ha dichiarato Gad Lerner. Sì, ha ragione, Gad Lerner. Io glielo sottoscrivo. Cos'è che ha detto? Aspetta un attimo, ha detto che ha diritto alla sua felicità, una cosa del genere. No? Che chi ha scontato parte della pena, indipendentemente da quello che facciamo. Ma ho capito, ma lo può fare? Ha diritto di sorridere, può pubblicare delle foto su Facebook insieme libertà. Non mi pare un crimine quello. Il giudice di sorveglianza ha allentato completamente tutte le regole contro. Cioè, per lei, a lei pare assolutamente normale che una persona che dà un'ombrellata nell'occhio di un'altra, questa persona muore, condannata a 16 anni, che per me è già poco. Si permetterà che è diverso da una persona che gli dà un colpo di pistola in faccia. Beh, l'effetto è uguale, tutte e due morti cioè anche non è che... Anche quando con la macchina sbagliamo... Quello è un altro discorso, era andata... L'evento non si giudica dall'evento, si giudica dai comportamenti... Ho capito, ma quella ha inseguito quella persona lì, cioè non siamo... Non ha inseguito, c'è stato un parapiglia... Adesso che vuole fare la signora Mateica? Niente, vuole scontare tutta la sua pena, l'ho sentita da 10 minuti, vuole scontare tutta la sua pena. Sì, vabbè, d'accordo. Non è certamente orgogliosa di quello che le è successo. Questo è chiaro, ci mancherebbe altro. Ha visto un'Italia cattiva e dei magistrati cattivi, ha visto un volto buono dell'Italia, quello che realmente... Cioè, quello che gli consente di essere libero dopo aver ammazzato una persona dopo 9 anni? No, è il diritto. Il volto buono di un magistrato che ha capito... E che vuole fare nella vita? Intanto sta lavorando in una comunità di ex detenuti, lavora dalla mattina alla sera, cucinano, scopano, nel senso buono della parola. Beh, sì, quello scoperanno pure nel senso buonissimo della parola. Fanno le pulizie e mantengono questa comunità, questa piccola comunità. E vabbè, ma nella sua vita ha qualche ambizione? Vuole fare, che ne so, l'astrologa, l'idraulica? Vuole stare con i suoi figli e poi nel suo paese cercherà un lavoro. Perché è stata... che era quasi bambina, ha fatto solo la prostituta, ha avuto 2 figli, poi ha fatto solo carcere, non credo che abbia un'idea precisa di quello che voglio fare, forse ce l'ha, ma ci vuole del tempo perché la realizzi. Va bene, grazie avvocato, arrivederci. Anche arrivederci. Voi, arrivederci. Ma io trovo tutto questo veramente incredibile, ragazzi. Poi ditemi voi, magari mi sbaglio io, sono diventato con l'età, magari sono diventato giustizialista, sono diventato. Sei qualunquista populista, ma non rompere i coglioni, sei quella roba lì. Perché è evidente che se lo spieghi invece non c'è nessun allarme sociale, anzi è la vittoria dello Stato, è la vittoria dello Stato il fatto che questa persona, dopo aver scontato parte della pena, lavori. Ma lo sai che non capisci un cazzo? Lo sai perché non ce la faccio? Ma io non capisco, ma si può dire che non capisci nulla per demagogia? Per un'altra... Concorderai con me che è la vittoria dello Stato il fatto che questa persona ha scontato parte della pena e continua a scontarla perché torna in carcere e lavora, viene reinserita, è la vittoria dello Stato. Come fai a non capire che lo Stato vince quando condanna e reinserisce? Potrò avere un'idea diversa dalla tua o no? Ma non è diversa, tu accarezzi il pelo della tigre di questi 4 miserabili che chiamano, lascia perché è evidente. Aspetta, sai che Salvo Mandarà, ex operatore di Grillo, è vegano? Vabbè, non mi stupisce. È vegano pure lui. È vegano. Vuole fare una rubrica di cucina di ricette umane? Una rubrica di cucina di ricette umane, amico mio. Giù le mani da Cruciani. La Zanzara. Alzati e cammina, dice a noi ora Gesù, è tempo di partire. Dai, Vieni anche tu, inno di Adinolfi, eh. Diciamo basta a chi ci dice. Agghiacciante. Che tutto è libertà. Fammi sentire le parole un attimo, perché neanche la DC. Non c'è diritto. Neanche la DC degli anni 50. Mamma ed un papà. Per i figli non c'è diritto ad una mamma ed un papà. Per cantare la verità. Ma cioè la verità, capito? Ma quale verità? Saranno i fiori della civiltà. E allora vieni, è una famiglia, un grande cuore noi siamo già, grande amore che mai ci piegherà. Inno del popolo della famiglia di Adinolfi, della famiglia. Vedi che incedere, che passo, che nostre luche, originalità. Vedo già le guardie svizzere che avanzano dal Vaticano verso il Parlamento. Li vedo con a capo Adinolfi che marcia verso il Parlamento con le guardie svizzere. Allora dice Adinolfi: non c'è un solo caso, non uno, in cui una donna che volesse non sia riuscita ad abortire. 105.000 donne l'anno scorso hanno voluto sopprimere il loro bimbo e 105.000 volte ci sono riuscite. Ci sono riuscite. Una macchina dell'orrore perfetta, sembra Hitler, no? Una macchina, sembra Mengele, sì, che ci sono, bravo, tanti, sì. Mengele in Italia che fanno abortire le donne. C'è una macchina dell'orrore. Io, quando sento la macchina dell'orrore, immagino, che ne so, no, le camere a gas, i posti di tortura nella Cambogia di Pol Pot e cose di questo tipo. Cioè, non posso immaginare che una persona dica che la macchina dell'orrore sono semplicemente gli aborti volontari, peraltro, di donne che scelgono di abortire. No, la macchina dell'orrore. Ci fanno discutere dei medici obiettori. No, amico mio, non è che si discute dei medici obiettori, è che il problema è che magari una donna deve prima fare un giro delle quattro chiese prima di trovare un medico che la fa partire. E dai. E poi ancora mi chiedete perché abbiamo fondato il popolo della famiglia, per costringerli, sì, a confrontarsi con i dati reali e non una proposta e con una proposta alternativa. L'abolizione della legge sull'aborto. Si candida a sindaco per questo, pensa te. Che poi che cazzo c'entra, scusa, nulla. Grazie al sindaco. Totalmente, dai, nulla. Sì. Candida a sindaco di qualcosa di originale, togliamo il Colosseo, ad esempio, un abuso edilizio assoluto, puoi dire, ecco, questo. Dove andiamo? Dove andiamo? Giovanni, dai, da Brescia, no, anzi, prima abbiamo Giancarlo da Roma. Giancarlo, vai. Salve. Dimmi Giancarlo, mondo, dimmi. Io sono il portavoce dell'organizzazione Identità Rumena, ti dico solo Maricica Iaianu. Alessio Bordone è stato condannato a una pena molto minore di quella a cui è stata condannata. Non lo so, non conosco il caso. Doina Mattei, te lo dico io, alla Nagnina di Roma un italiano a cazzotti ha ammazzato una mamma romena che ha lasciato un bambino di 5 anni. Me lo ricordo, sì, me, ecco, lo ricordo. Quindi prima di parlare di queste cose, di aizzare la gente contro i rumeni, Cruciani, ma chi sta aizzando contro i rumeni? Ma chi sta aizzando? Molto gravi, a me non mi interessa. Molto gravi. No, Giancarlo, adesso non mi rompere le scatole, perché io non sto dicendo. No, a me non rompo, perché tu non sai il male che fai. A me non mi interessa. A me non interessa che questa sia romena. Non mi interessa. Sa niente, poteva essere pure pugliese. Allora finiamo lombarda. La trasmissione su Alessio Bortone, dimmi quanta galera ha fatto. Neanche non due so, anni mi stai dicendo. Neanche due anni ha fatto di galera questo qua, hai capito? Giancarlo, e stai facendo una cosa immonda. Giancarlo, stasera. Giancarlo, io non mi vergogno di nulla. Cruciani, Giancarlo, se tu mi dici, se tu mi dici che questo qua, per avere dato un pugno, adesso ricordo vagamente il caso, credo all'interno di una metropolitana, giusto? Alla Nagnina di Roma. Me lo ricordo perfettamente. Se questo qua ha preso a pugni una ragazza romena o rom, non mi ricordo che cos'è. No, romena, etnia come gli zingari nostri, non c'entrano un cazzo quei rumeni, Roma. Ma questo lo so che voi siete razzisti con i Roma, non ti preoccupare. Certo, siamo molto razzisti come te. Beh, eccolo qua, siete razzisti con i Roma. Parla di Bortone, parla di Bortone. No, ma sei razzista con i Roma. Sei razzista con i Roma. Sei razzista con i Roma. Sei razzista con i Roma, di la verità. Ma io non ho detto, io non ho detto che è giusto che sia uscito dopo due anni. Non ho detto che è giusto che stai facendo l'apologia dei 9 anni, questi ne ha fatte 2. Parliamo di Bortone. Non lo so, che devo studiare il caso. Devo studiare il caso. Studialo. Allora, prima di fare la trasmissione, ma che c'entra? Stiamo parlando di un'altra cosa. Xenofoba, ah, io, tu sei razzista con i Rom e io sono razzista. Io non sono razzista con i Rom. Tu me l'hai detto prima. Me l'hai detto prima. Sono persone normali come tutti, come gli italiani. Io non faccio distinzioni etniche come te. No, io non faccio nessuna distinzione etnica. Ho semplicemente citato un caso che poteva essere quello anche di un italiano. È uguale, identico. Io te ne uscito un altro, una donna rumena. Benissimo. Maricica, che il bambino la piange da 10 anni, nessuno dice niente, tutti se ne fottono. Sì. E parliamo questo del fatto 2 anni. Due molto anni male. Non voleva neanche entrare, l'hanno difeso che era un poveraccio italiano che per sbaglio la mano è andata sulla guancia di questa, non te ricordi la storia? Come no, malissimo, malissimo, sto dicendo Giancarlo, malissimo. Ma infatti quello che dice questo ascoltatore... Sei andata così, malissimo. Guarda, io sono un avvocato, il collega che parlava prima ha detto la verità, c'è una discriminazione giudiziaria. Lo vedi che non abbiamo pregiudizi, abbiamo intervistato uno che è dalla parte tua? Di che parli, dai? Giudiziaria sui rumeni, quindi se tu fai queste trasmissioni andiamo a mettere olio bollente sul fuoco. Vabbè, senti, tu adesso innanzitutto non mi devi dire come devo fare la trasmissione, quello lo decido io per fortuna. Prima cosa. Seconda cosa, caro Giancarlo, non ho affatto parlato... ho detto semplicemente che era romena, ma non è che ho detto che i rumeni, ho sottolineato che ma era romena. Ma tu lo sai che poi la Lega ci zuppa il pane. Io non lo so se zuppa il pane la Lega, non me ne frega. Guarda nulla, ci sono 1 milione di badanti rumeni nelle nostre case che benissimo poi soffrono per questo tipo di trasmissione. Ma che soffrono, che gliene frega, vabbè, di quello che diciamo noi alle badanti rumene, c'è un'ideologia. No, ma i datori italiani non gliene frega, però. Ma tu lo soffrono, sai, ma le badanti rumene ti pare normale? No, ma perché le badanti rumene non ascoltano la radio? Sì, ma non gliene non ascoltano la radio come Donato da Varese, Franco da Franca la Vicentina, ascoltano la radio uguale, sanno l'italiano meglio di Donato da Varese magari, ma l'ascoltano perché Donato? Stanno con che i nostri anziani, Donato? Stanno Donato? Lì con i nostri anziani, si sentono vilipesi. Aspetta, dai, che mi sa che ha chiamato perché l'ha insultato. Donato, sei sì, tu? Chiamo. Donato? Pronto. Sei tu. Pronto, sono molto casuale, incazzato. tutto casuale. Ma io quando dico incazzato lo dico con la I maiuscola. Prima cosa, allora avevo quel cretino che ha telefonato prima, che era la difesa dei rumeni. Davide, aspetta un attimo. Allora, i rumeni, i pochi rumeni che sono entrati grazie a quel porco maledetto di Prodi, a ma quella troia dalla No, adesso. Donato! Sei, guarda, è una cosa miserevole. Perché sono questi responsabili! Sono questi che hanno firmato il trattato di Lisbona, schifoso, hanno pensaputa, sono loro che l'hanno fatto entrare. Noi non avevamo bisogno di 3 milioni di rumeni, allora, noi abbiamo 3 milioni di italiani in Romania. Allora, ma io non ce l'ho con i rumeni, io ce l'ho con i delinquenti rumeni che hanno ucciso, che le questure questi dati non li dicono. Negli ultimi 10 anni sono riusciti ad ammazzare più di 5.000 italiani. No, 5.000, dai. Tantino il dato. Quando volevi scommettere? Il dato è un po' tantino, quando un po' altino. Quando 5.000. Vuoi scommettere? Pezzo di merda, tu! Italiano rinnegato. Allora, adesso voglio parlare con calma perché io sono molto incazzato. Ma perché sei incazzato? Non ho capito. Darth Fener, quello di Guerre Stellari. Darth Fener. Perché quella sporca troia. Quella... No, Donato. Non cominciare. Quella Doina Mattei, quella era prostituta, quella. No, troia, no. Vabbè, ho capito, ma adesso faceva la prostituta, è stata 9 anni ma in galera. Questa signora, ma non mi interessa un cazzo se fa la prostituta che è una prostituta. Ha diretto ad essere chiamata per nome, però, a non essere insultata. Io grande rispetto per un imbecille come lei. Io non ho rispetto per quella prostituta. Ma la prostituta, io le rispetto le prostitute, scusa. Pulisce i bagni come lavoro. Oggi pulisce i bagni, che è quello che dovresti fare tu. Dovresti pulire i bagni, non lei! Tu! Oggi pulisci i bagni, Dorina! Quello che dovresti fare tu! Miserabile d'un miserabile! Tu dovresti pulire i bagni! Aspetta, e loro! Che il tuo avvoltoio che urla come niente, questo nemico eterno dell'Italia! Deve sparire! Questo deve sparire, ma te lo dico, non deve sparire male, letteralmente poi. Questa merda! Perché questo se ne vanno sempre i migliori? È io non capisco. È un atomo che distruggerà i nostri, perché come questi ce ne sono tanti, come quello che ti hanno parlato prima. Vabbè, allora io quello che voglio dirti, quella rumena, per alzare il braccio, sì, con ficcare la punta dell'ombrello, sì, nell'occhio di una mia connazionale, una povera ragazza che non vive più, noi, e lì nell'oculo, mentre lei si fa le foto. Ho fatto un articolo su di lei oggi, ha chiuso subito. Ha chiuso subito perché si svegliava di star lì. Comunque, Donato da Varese, io non ho alcun, allora, no, ragazzi, fermiamoci tutto. Tutto quello fermo, che si dice fermo, dei rumeni, fermo, ci sono rumeni. Ricolfi fa gli persone, articoli. Luca Ricolfi fa gli articoli. Napoletano fa gli articoli. Uomo non tu. Di merda, tu non fai niente. Ma quali articoli? Vai, vabbè, alla tua calma. Ma che c'entra, dai, Donato? Allora, che volevi dire? No, continua. Allora, gente, voglio dire che allora, aspetta, aspetta. Della generalità dei casi, sì, sono quelle che hanno ucciso più italiani negli ultimi 10 anni. Vabbè, adesso questo verificheremo. verificheremo, verificheremo. Dunque... chiamate le questure. Io ho conosciuto un rumeno. Io ho conosciuto un rumeno che mi ha detto che a Roma ha ammazzato due persone. Ma no, ma dai, non è possibile. Ah, te l'ha detto dai. A te. Non è possibile. Te l'ha detto a te. No, dai. Il rumeno ha detto a Donna da Varese che ha ammazzato due persone. In confidenza. Ma dai, ma chiudi tutto. Ma chiudi sto poveretto, dai. Ma è malato di mente. Tu sei un poveretto. Ma tu sei una merda. Io ogni volta che ti sento mi vengono i conati di vomito. Ma cosa fai? Perché ma perché fai così? Perché spingi così? Ma perché sei sulla tazza del bagno? Lo sforzo fai. Però scusami Donato, ma non fa nessuno sforzo, mi sembra, sì, è così, sì, è naturale, è così. Corpo. No, però allora, Donato, io non ho capito una cosa, i rumeni per te sono... Quella ragazza, quella lì dovrebbe stare in galera 40 anni. No, io ho detto 30, io ho detto 30, sono stato... 40 anni. Tu dici 40 anni. Io offro di più, dai, avanti. Quello è stato un omicidio, altro che premeditato, preso intenzionale. Quello è stato un omicidio proprio colpo, l'ha voluta uccidere. Ha ma preso questo, la punta dell'ombrello e l'ha conficcata in faccia e è andata nell'occhio, la voleva uccidere. Ti stai sostituendo però i giudici, Donato, in questo caso. I giudici a hanno... me dei giudici non mi interessa un cazzo! I giudici, allora, i giudici dicono quello che cazzo vogliono. Beh, ho capito, e io però... da uomo dico che i giudici hanno sbagliato. Vabbè, ho capito però... Dico che i giudici... Ho capito però, caro Donato, uno non è che può dire i giudici hanno sbagliato sulla base così del nulla. Cioè, ma non mi interessa un cazzo! Non gli interessa allora, lui. Ma cosa è un campo nero umano? Così. Andiamo su giù. Perché argomenti? Che sono? Ci sono anche ci provo. I grandissimi ci aspetta. Pezzi di merda. Ecco, querele che fioccano. Speriamo. Ti credono sotto. Ti credono sotto due piani sotto querele cielo, che fioccano. Dio. Speriamo. Cioè non ho capito perché tutti i giudici sono dei pezzi di merda. Adesso non è stato. Ho detto la maggior parte. Molti giudici che sono dei pezzi di merda. Come molti avvocati che dovrebbero essere messi al patibolo. Avvocati proprio al patibolo. Come quel mentore che ha come Marazzita lì, Marazzita, quel felice sì. Bambine. Quello lì quello è che... un lurido spavento comunista. Perché ma magari li portasse via tutto. Perché se una povera radicale intanto andasse in Romania e ammazzasse nelle stesse modalità, vabbè, un idiota, Romina, dai, poveretto. Quella sarebbe ancora in carcere. Sarebbe ancora in carcere idiota, a morire. Più... Quest'Italia è finita, ve lo sto dicendo io, è finita. È finita. Finché tieni questo bandito fucillare a fianco a te, tu contribuirai a portare io quest'Italia nell'inferno. Cioè, tu dici... Queste persone che hai a fianco a te, questo Parenzo di merda, raccomandato mi dalla saluti tua tutti a casa, deve essere eliminato. Mi saluti i suoi parenti. Ma come a casa. Eliminato, giusto. No, sì, dai, beh, moderato, eliminato giusto. Da tutti gli apparati mediatici. Apparati mediatici. Dei propri italiani. Sì. Io voglio fare tutti il italiani. Bene. Ma lui è italiano, lui. Non è italiano. Ma che italiano? Ma lui ragiona da italiano. Eh? Lui ragiona da italiano. Lui è un miserabile, non vede che. Ma non vede che giustifica tutto l'innaturale, tutto l'orrendo. Io sono molto arrabbiato che questa donna. Quale donna? Questa prostituta sia fuori. Ah, tu sei. Che quella povera ragazza stia in un loculo. Lo so che sei arrabbiato. Da 9 anni in un loculo, e che abbia smesso di vivere perché Prodi. Sì, no, Tonino, Prodi, perché c'è Tonino, no, che c'è D'Alema, ma che c'è? Hanno D'Alema. Firmato un contratto. Ma dai, Era tutto ma tu per far entrare i romeni, tu dici, sei incazzato con Prodi, cioè, tu stai dicendo che l'assassino... Non dovevano entrare i romeni. L'assassino di a Vanessa Russo... lì sono entrati, guarda anche il presidente della Romania di quel tempo, disse, guardate signori miei, che là sono arrivati i peggiori criminali. Vabbè. E hanno ucciso più di 5.000-6.000 italiani. 5. Adesso vi sfido, 5.000 andate a contarli, e saranno più di 6.000. Parenzo, che gli vuoi dire in conclusione? In conclusione che gli vuoi dire? Voglio dire che Prodi è... Prodi è maledetti. D'Alema deve essere ucciso. No, D'Alema questo. Sì. D'Alema deve essere ucciso. Ma che c'entra? Se non si firma un trattato di quel. Ma questo è ma tu non sai che quel trattato uno di un ma politico del Bruxelles dice che se l'avessimo letto attentamente quel trattato nessuno l'avrebbe firmato. Donato da Varese legge il trattato di Lisbona. Questo merda. Vecchio mio, stai Cusani, esagerando, guarda, lascia che te lo dico. Cusani, se vuoi bene gli italiani, sì, liberati di questo parco. Se vuoi bene gli italiani, finché ecco, sarà troppo tardi. Quando sarà troppo tardi, non avremo nemmeno più l'aria per respirare. Sì. Liberati di questa merda. Liberati. Buttalo fuori. Ciao. Vado subito a Milano a pisciare sul sigaro di Cruciani. La zanzara. Just Cruciani, presidente del Palermo. Parenzo, non prendere l'aereo, che a te non ti fanno neanche scendere dall'aereo a Palermo. Ciao Giuseppe, ma il bidet lo fai tutti i giorni? Ma di fatto, la questione della mano trapiantata è che è molto più eccitante masturbarsi, perché la mano non è la tua. Siamo al top, siamo al top. Cruciani, appena trasferito a Los Angeles, corsetta la mattina con la zanzara nelle orecchie e l'intenzione di fare il club La Zanzara California. Ovviamente Nappi presidente. Cazzo Cruciani, hai fatto un mostro, hai creato un mostro, questo coglione qua di Vassallo ancora in televisione. Ma dai, ma per favore, un ignorante non riesce neanche a coniugare tre verbi e tutti i giorni in televisione. Mamma mia, che vergogna, povera Italia. Dopo aver sentito questo cazzo di Vassallo, com'è, chi è, come si chiama, quello che dicono i vegani, i nazi vegani, minchia, sono tornato a casa e ho pestato il mio gatto così, per reazione. Beh, questo è grave però, potrebbe essere anche segnalato questo ascoltatore, attenzione, ha pestato un gatto per reazione a Vassallo. No, ma lo dico sul serio, non bisogna pestare i gatti, io spero scherzasse l'ascoltatore. Beh, qui a Dubai pregano, io ascolto la zanzara, siamo al top, traffico. La zanzara. Allora ragazzi, direttamente dall'ambasciata della Nord Corea in Roma, Parenzo, ambasciata della Nord Corea in Roma, il senatore Antonio Razzi al ricevimento per non so quale anniversario del glorioso popolo nordcoreano. Antonio! Hai detto bene, buonasera a te, all'amico Davide, buonasera a tutti i radioascoltatori della Zanzara. Bene Antonio, ma dove sei esattamente, questo grande ricevimento sfarzoso, no? Sì, perché il compleanno del Kim Sung. Chi è, scusa? Ah, il nonno, cioè... è il nonno del maresciallo. Ah, ma il mitico è il nonno. Ma è morto quello, o no? È la festa nazionale. Ma amico mio, ma è morto quello che festeggiano, compleanno? È morto perché festeggia sempre il suo compleanno. Ma che siamo matti? Ma è uno muore che si fa il compleanno? Mica il compleanno si fa solo ai vivi, si fa pure ai morti. E beh, quelli i regimi però lo fanno, quello stesso. Belli usano così. Ognuno a casa sua fa come gli pare. Sì, pure questo è vero. Quelli vogliono festeggiare il compleanno di un morto, sembra normale, fate voi. Scusami Antonio, ma che servono lì come piatti, diciamo, i piatti principali di questo sforzoso ricevimento, dato ma che ma poi chi c'è poi soprattutto? Dato che ma guarda, dimmi. C'è la tavola tutto bello impazzito, ci sono spaghetti di soia, c'è pesce, c'è pollo. C'è una cosa ricca, insalate varie. C'è una cosa da ricchi. La carne. Questa sarebbe la Repubblica Popolare Comunista. S'attacca all'erba, ecco. Cioè, in che senso? Non mangiano la carne questi qua? No, lo mangiano. Carne come lo mangiano? Ha voglia la carne che mangiano là. Se lo mangiano anche doppio. Anche doppio. Anto, io non ho capito, ma questo tuo grande progetto, ho visto oggi veramente una trovata pazzesca, hai avuto, devo dire la verità. Hai tirato fuori i gatti dal cilindro, come si dice, no? Cioè, allora, ripetiamola bene questa cosa qua. Tu che cosa vuoi fare per eliminare i topi? Per eliminare i topi, quando sarò eletto sindaco di Roma. Sì, vabbè, certo, non c'è dubbio. Questo è sempre quando sarò eletto. Questo è allora, che tu sarai eletto, non c'è il minimo dubbio, no? Mi sono accordato con i paesi asiatici. Ma quali paesi asiatici? Per avere 500.000 gatti, perché sì? Loro hanno un fiutone, come si quello dice. Quello si sa che caccia i topi. E caccia i topi e scomparirà tutti i topi da Roma. Sì, però scusa amico mio, ma come fai a portare materialmente 500.000 gatti asiatici? Perdona. Con gli aerei, come ci viaggia le persone, si può viaggiare pure i gatti. E perché loro non 500.000 però, 500.000 amico mio. Si vuole apportare. 500.000, poi dove li trovi? Chi è che prende 500.000 gatti? Quale paese? Ma ce ne sta sanno, ce ne stanno quando ne vuoi. In paesi asiatici sono famosi i gatti asiatici. I gatti belli grossi, belli grossi. Belli ciccioni, affamati. Quelle se magna tutti i topi di Roma. Però scusami Anto, adesso tu hai già assimilato... No, ma questa non è un'idea stupida, eh? Ma io la sto dicendo che è un genio. È la prima volta che dice qualcosa È geniale perché 500.000 gatti... Io la scorsa settimana ho fatto un'altra cosa per quanto riguarda come ricavare subito 2 miliardi di euro... Come, scusa? Come si fa? Andando in borsa. Ah, devo quotare in borsa cosa? Alcune cose di Roma. Ma amico mio, Roma è scannata, ha il budget a pezzi, cioè, è quasi in bancarotta. Roma, tu la vuoi quotare in borsa, Roma? Ma io, siccome ho la mentalità svizzera, allora c'ho la mentalità bancaria. Ma allora tu? Ho la mentalità per far risanare e per risanare Roma. Ah, scusa un attimo, però torniamo ai gatti, che mi sembra più importante. Allora, 500.000 gatti, ma i coreani contribuiscono, ce l'hanno 500.000 gatti, potresti risolvere direttamente con la Corea del Nord? Anche loro mi daranno la sua quota. Ma hai già chiesto stasera all'ambasciatore, a qualcuno o no? Ma ho chiesto, sono disposto tranquillamente a mandare anche la loro parte. E quanti gatti... Per il bene di Roma tutti collaboreranno. Cioè io... Perché Roma è Roma. No, ma questo vabbè, d'accordo, se Roma è Roma. Quanti gatti daranno i coreani del nord? Gatti nordcoreani, meraviglioso, dimmi. Non lo so, 10.000, 20.000, sicuramente una buona parte verrà anche da parte loro. Ma ti pare normale, Parenzo? Cioè, tutti i paesi asiatici. No, di normale io non trovo nulla. Tutti i paesi asiatici collaborano. Ma scusa, non trovo normale che un deputato vada a un ricevimento di un paese, di un senatore, scusami, vada a un ricevimento di un paese notoriamente antidemocratico e con la pena di morte. Ma che c'è qualche bombetta là, qualche prototipo di bomba, no? Di missile lì? No, niente missili, solo a sorriso. Bere e mangiare. Bere e mangiare alla faccia di quelli che muoiono di fame in Corea del Nord. Vabbè, ma che c'è? No, sono molto ospitali. Ospitali, d'accordo. Credo, sì, ospitali certo. Con voi. Con voi, sì. Assolutamente. Vi ci devo portare a voi due, sì. A Pyongyang. Magari. A tutte e due. Ma è vero che vuoi trasformare Roma come Pyongyang? Ma pulito, sì. Roma come Pyongyang. Ordine e pulizia. E con le buche come facciamo con le buche? Con le buche. E le copriamo con i dissidenti? Con i dissidenti, con le buche o i carcerati, che sta da fare? Lo tiriamo fuori e le facciamo lavorare, così sono contenti, così prendono un po' d'aria pura. Ma questa è buona però, cioè tu stai dicendo, questa è buona, come dicevo, questa è buona, come fa Crozza con Ranzi, questa è buona, questa è buona. Ma cioè tu vuoi prendere i carcerati, tirar fuori, ovviamente in modo temporaneo. Temporaneo, a farli lavorare in modo che... Cioè la stessa cosa che capita alla signora che avete accusato prima, chiudendo le buche. È uguale a quello che è successo alla signora Dorina. Non ho capito, allora tu vuoi tirare fuori i carcerati per farli lavorare a coprire le buche di Roma? Sì, mi sembra, sicuramente loro sono felicissimi di farlo. Capito Parenzo? Come Dorina, io capisco, io sono d'accordo a far lavorare i detenuti. Infatti Dorina, la ragazza che avete, stiamo parlando, la ragazza che sta scontando la pena e che avete raccontato prima. Ma tu sei uno schiavista, cioè portare fuori i carcerati e farli lavorare per le strade di Roma. La signora Dorina che sta scontando la pena pulisce i cessi, quella che avete accusato di essere fuori, quella che hai accusato di essere fuori, libera e di fotografare su Facebook. Infatti non sono d'accordo. La signora pulisce i bagni, quindi già lavora. Vabbè. E la sera torna a dormire in carcere. Antonio, l'ultima volta che hai sentito Berlusconi, quando è? Ci devo parlare questi giorni. Ma scusa, ma ritirati, no, da sindaco di Roma, ancora con sta roba. Ma non ancora detto l'ultima parola. Non ancora detto. Naturalmente quello sarà sicuramente il presidente Berlusconi che mi dirà, Antonio, te lo dico da amico, fai un passo indietro. Ma e tu dico, naturalmente. Caro presidente, io te lo dico da stramico, me ne faccio 10 indietro. Ma tu, però te lo deve dire lui. Ma tu non ho capito, Anto, ma tu sei praticamente alle dipendenze di Berlusconi. Scusa, è il mio presidente. Ti dice se ti dice ritirati, tu dopo 2 secondi ti ritiri. È il presidente. Di presidente ce n'è uno, è solo lui. Per me. Tutti gli altri sono nessuno, come si dice? Gli altri chi lo conosce? Comunque 500.000 gatti sei un genio. Cioè, 500.000 gatti, se riesci a portare 500.000 gatti a Roma, ti giuro ti faccio una corona. Una corona, che sono morto. No, che è morto, per carità. Senti, facci parlare con qualche coreano lì, qualche coreano del nord. Passa il telefono così. Adesso sono tutti impegnati, che parla con uno, che parla un altro, no, avete... dopo non capisci, vergogna, non capiscono bene. Beh, si vergognano, non certo. Non bene l'italiano. Dopo, vabbè. Dopo va a finire che quelle parla abruzzese, dialetto abruzzese. Senti, ma che cosa sono i papers, la Panama Papers? Panama, sai cos'è? I piccioli, io purtroppo... a me non mi può pigliare, a me non mi acchiappa a Panama. A te non ti acchiappa. Che mi può acchiappa a me. Ciao, a dopo, buona. Mangia bene, mi raccomando, ciao, ciao. Vabbè, ciao, ciao, buona serata, ciao, ciao, ciao. Viva Goldrake, che ammazza i vegani. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. E ci si diverte a bestia qui alla Zanzara, cari amici miei! 800 24 00 24, oppure i vostri messaggi vocali su WhatsApp 393 71 71 701. Beh, siamo veramente al top, siamo veramente al top! Allora, caro David, io lancio fra poco un grande sondaggio, direi una grande ricerca, fatta però sul campo, dai protagonisti. Sì. Dagli attori, nel senso di persone che agiscono, dai fruitori, direi, un grande sondaggio. Qual è il miglior bordello in Svizzera? Cioè, qual è il posto di ricreazione, cioè il locale, il bar, la sauna, l'FKK, come si dice in gergo, che vi ha soddisfatto di più? E fra poco lo faremo anche chiamando i protagonisti di questa vicenda, cioè i protagonisti dell'imprenditoria del sesso, che è una grande... Beh, è grandissima. Cioè no, ma pensate che grandi inchieste che fa questa radio è che non trovano riscontro nel cartaceo. Diciamo, cartaceo. Scusami, l'imprenditoria del sesso sarà una cosa importante o fondamentale, no? Beh, fondamentale. Una delle cose, il sesso è una delle cose più importanti della vita. È l'unico mercato che tira. Esatto. Se c'è qualcuno che vuole trasformare il sesso in imprenditoria, è già ovviamente da secoli succede, da secoli, questo, sì. E sarà giusto dargli spazio, sarà giusto capire cosa succede in quel mercato, sì, come funziona, come che funziona. Tra i tanti settori questo è quello che ti sta più a cuore, che diciamo, mi affascina particolarmente. Allora io lancio un sondaggio: qual è il migliore posto dove andare a puttane in Svizzera, o comunque, se non volete usare questa espressione, dove frequentare delle dolci o anche non dolci ragazze in terra elvetica? E dico in Svizzera perché partiamo dalla Svizzera, è il posto più vicino a noi. Prima però ti voglio leggere una cosa. L'ha scritta un signore che dice di essere una specie di filosofo, molto molto vegano, che si chiama Leonardo Caffo. Per dirti quanto è vicina Vegania in realtà, quanto questi vogliono Vegania. L'etica non è una decisione. L'etica è progresso morale. Chi non ha empatia non è cattivo, semplicemente non è un uomo. Riferito agli animali, eh? E poi ti parlavo del signor Mandarà. Signor Mandarà, che è vegano, io non lo sapevo. È la cosa migliore che fa in questo caso. Ed ha praticamente lanciato una rubrica di cucina ricette umane. Oggi presenteremo questa nuova rubrica di cucina, ma cucina naturalmente particolare. Cominciamo subito questa nuovissima rubrica che si intitola Ricette umane con l'ingrediente in più. Vi aspettiamo adesso qui su Salvo 5.0 TV. Senti. E alcuni nostri amici europei o italiani si indignano quando vengono fuori quelle foto, quelle robe dei cinesi che mangiano i cani, no? Dicono: che schifo, ma che maiali, ma perché ammazzano i cani? Ma scusate, mi spiegate qual è la differenza fra un cane e un coniglio? Oppure fra un cane e un maiale, fra un cane e una mucca, fra un cane e un pollo? E su questo non ha torto però, eh? Conclusione di Mandarà. 1 miliardo scarso di persone che vivono sulle spalle degli altri 6 miliardi e di 50 miliardi di altri esseri viventi che vengono massacrati, stuprati, imprigionati per tutta la loro miserabile vita, fino a quando poi non finiscono sui vostri piatti. Hai capito che parole si usano? Stuprati, eccetera, eccetera. E Emanuele dalla provincia di Viterbo, vai. Sì, beh, buonasera. Allora, guardate, io volevo un attimo riaffrontare il discorso che è stato parlato fino a prima di questa ragazza che ha passato 9 anni in carcere. Sì, allora? Io volevo dire questo per esperienza, non dico primaria, ma per familiari. Quando uno, io parlo in generale, dice dovrebbe farsi 30 anni, 40 anni, prima dovrebbe rendersi conto di quanto il tempo passi lento lì dentro e quanto si soffre. E si potrebbe arrivare al punto di capire che anche se sembrano pochi 9 anni, lì sono un'infinità. Ma nessuno dice che 9 anni in prigione sono pochi, sono tanti, ma ragazzi, ma allora se vogliamo tutto ridurre a 9 anni facciamolo pure, per carità, questa è in semilibertà. No, non sto dicendo quello. Per me, però, se uno ammazza una persona, come minimo devi pigliare 20-30 anni, ma li devi fare tutti in carcere. Per alcuni delitti tutti in carcere, tutti. Ma non mi interessa fare un mese, devo fare un mese, tutti devono provare a fare un mese in galera, dai, su. Marco da Torino, ho capito, non è sbagliato. È importante il sistema rieducativo, che quello sta tentando in carcere, poi esce, poi non ha niente da fare, poi si ritrova a rubare, perché come ha detto l'avvocato prima, già quella persona aveva fatto la mignotta, quando esce farà ancora peggio. Marco da Torino, vai Marco. Buonasera. Dimmi. Ciao, ascolta, io sono un nuovo italiano. Tu sei? Pronto? Che un sei nuovo italiano. Italiano? Che vuol dire un nuovo italiano? Sono diventato italiano da poco. Che prima che eri sbagliato in Italia, prima... ero del Nord Africa. Del Nord Africa. Ti chiami Marco? No, non mi chiamo Marco, ma ho detto Marco così. Ah, cazzo di cane, perché ti vergogni di come ti chiami? Non ho capito. No, non è quello. E allora perché ancora, non ti sei presentato come... Ma non entriamo in mezzo di queste cose. Ma chi ti frega? Non lo so, ma che ne so, che fai? Lo spacciatore? Che fai? Non lo so. Cioè, Ma va, smettila di dire cazzate. Amico mio, scusa, perché ti presenti come Marco quando magari ti chiami, che ne so, Yusuf? Ma perché non voglio essere riconosciuto, tutto qua. Ma che hai fatto? Che fai di mestiere? No, lavoro, faccio l'autista. Fai l'autista, vabbè, non vuoi essere riconosciuto, tanto ti riconoscono lo stesso. Parlo 4 lingue e tante altre cose, non è quello il problema. Vabbè, allora? Io ho detto, per me è tutto sbagliato, il sistema, il codice penale italiano è sbagliato. Perché invece? Perché tutela i delinquenti e non le vittime. Oggi ho visto la mamma di quella ragazza che è morta. Sì. Niente al mondo li può recuperare la sua figlia. Chi uccide? Deve essere ucciso, punto, basta, finita la storia. Nordafricano, Parenzo, Nordafricano. Okay. Beh, no, per dire. Ma infatti quei paesi lì non sono considerati dal punto di vista del diritto paese. Chi uccide deve essere ucciso, civili. Pena di morte, dici, pena di morte. Marco! Quella mamma? Sì. Pena di morte. Infatti il paese sì, quelli la pena di morte. La pena di morte. Io sono del Marocco, ok? Sì. Beh, appunto. Bene. Una volta ti ho chiamato, ti ho detto che mi chiamavo Yusuf, e mi hai detto, ma Yusuf di qua, di là. Allora ho detto, adesso Marco, così non mi riconosci, così mi fai parlare, ok? Allora, chi di lì deve andare via. Ho capito. Chi delinque deve andare via e chi uccide deve essere ammazzato. Va bene, ciao. Allora, la nostra grande inchiesta, caro Parenzo, sui bordelli svizzeri, qual è il migliore e quali servizi offre? Inizia da un posto che conosco perché sono andato poco tempo fa, si chiama Moulin Rouge, le Moulin Rouge, come quello francese, è gestito da un caro ragazzo, un ragazzotto possente, alto, vigoroso, no? Che si chiama Dario. Caro Dario, come stai? Ciao Giuseppe, tutto bene, tu? Amici. Bene, sì, amici. l'ho conosciuto, mi sta molto simpatico, soprattutto perché è uno che non ha, non è che si vergogna di quello che fa, cioè gestisce una, come si può definire, che non un è un bordello, vero e proprio, ragazzi, no, non è un vero e proprio bordello, casa di appuntamenti, una bellissima casa di appuntamenti. Beh, casa di appuntamenti, come un bordello, dai ragazzi, belli, un bordello. Vabbè, su, ma bordello lo diciamo noi, lui vuol dire casa di appuntamenti. Casa di appuntamenti. Praticamente si e trova. Chi ci trova lì? Un avvocato, un notaio? No? Beh, sì, anche gli avvocati lo frequenteranno, no? Cioè, Dario, che clienti tutti hai? Tutti lo frequentano. Che clienti tutti hai? Frequentano il mio locale qualsiasi genere di persona. Cioè, dai manager fino agli operai. Tutti, cioè. Ecco, tutti, ma quanto tutti, costa, tutti, per esempio? Uno si presenta lì, come funziona lì? Arriva da me, paga un ingresso che costa 10 franchi, sì. Ha 2 bevute a sua disposizione, 2 consumazioni, sì. Dopodiché incontra le signorine che sono lì a attendere, sì. Si accordano con loro per andare in camera e fanno quello che vogliono. E quanto si paga, diciamo, più o meno a tariffa oraria? In media, la tariffa sì, è a tempo, comunque in media costa intorno ai 100 franchi, sì. 80-90 euro per intenderci, sì. Per una mezz'ora. 80, no, dunque praticamente se uno si fa due trombate, chiamiamole così, se uno si fa due sessioni di sesso, diciamo, di un'ora, no? Con una piccola pausa, Parenzo, tu fai una bevuta, prendi una Coca-Cola, chiacchieri. Ma a me sembra un bel ambiente. Ma perché un bel ambiente? Perché tu li vorresti sopprimere? Sentire Taormina. No, io sono anche per legalizzarli, per aprire allora, in Italia. Però non ci andrei mai, ecco. Allora, e vabbè, tu sei un po' moralista. Tutt'altro che allora, moralista. Mi piace conquistarla la donna, non pagarla. C'è qualcuno. Figurati, sono moralista io. Tu sei mai andato, Dario, non con una di queste ragazze? Immagino che tu hai un rapporto professionale con queste qua, no? Cioè, sì, certo. Mai toccate tu, per esempio. Pur essendo uno che, insomma, non è che le donne non ti piacciono, Assolutamente mi piacciono da morire le donne. Però tu non hai mai toccato. Ma possibile che una. Ma avrei avuto una storia con qualcuna delle tue? Quante ne hai di clienti? Sì, di clienti? Di una cinquantina. 50 ragazze. Dove vivono queste signorine? Vivono qui nel mio palazzo. Ah, tutte nel palazzo? Ma tutte? Sì, tutte. Vivono tutte lì, praticamente. Un palazzo di prostitute. Un palazzo di prostitute, bellissimo. Esatto. Stupendo. Io l'ho visto, meraviglioso. Palazzo di prostitute alto, con tutti i servizi. Le persone a un certo punto scendono nel pomeriggio, dormono molto dalla mattina, naturalmente. Vivono in questo appartamento. Ma sono fidanzate queste ragazze? Qualcuna sì, ha il fidanzato, anche il marito. Che le viene a prendere, no? Del lavoro. Ma talvolta le viene a prendere, se no le lasciano arrivare magari dai paesi dell'est e poi se ne trovano. Ecco, perché sono molte, sono dell'est, vero? Tante, sì. Tante dell'est. Diverso, la maggior parte. Ecco, anche romene, no? Tante rumene. Vedi, Parenzo? Vedi, danno lavoro, una cosa che dà lavoro. Cioè, questo è un imprenditore del sesso, Dario. Che ti piace la rumena prostituta, ma questo... e non invece la rumena che lavora nelle case facendo un lavoro diverso dalla vendita del corpo. Ti piace questa immigrazione di prostitute, no, di carne, mi piace tutto, anche la rumena che lavora non facendo la prostituta, mica fare la prostituta è meglio di fare, che ne so, una. Però per me è un lavoro che ha la stessa dignità, esattamente la stessa dignità. Se uno lo sceglie, sicuro. Ma queste hanno, che c'hanno il pappone, Dario, queste ragazze? Che c'hanno? Qualcuno che le gestisce fuori? No, assolutamente, che io sappia no, poi non lo so quali situazioni ci siano a monte. Comunque quando arrivano da me arrivano da sole, arrivano per il passaparola e sono assolutamente liberi di fare quello che stanno facendo, nessuno le obbliga. Ecco, i clienti la maggior parte sono italiani, immagino, no? La maggior parte italiani, 90%. 85%. Quanto? 90%, sì. 85, 90%. Italiani, cioè gli svizzeri non vanno a puttane? Sì, vanno a puttane, però vanno oltre Gottardo. Gli svizzeri del Canton Ticino fanno i moralisti e quindi per non farsi vedere in giro vanno oltre Gottardo, vanno in Svizzera tedesca. Questo è interessante, Parenzo. Cioè, praticamente gli svizzeri. Perché vuol dire che ancora c'è una riprovazione sociale rispetto a questo, capito? Allora, praticamente mi stai dicendo che uno, stiamo facendo un po' i conti, no? Praticamente spende da te, se uno vuole fare, insomma, vuole passare una serata divertente, 80-90 a scopata significa, o comunque a. Ma c'è qualcuno che entra, parla con queste e poi se ne va pagando 90 euro? Sai come nei film? Parla qualcuno, sì. Qualcuno sì, ce ne sono tanti che arrivano, guardano, toccano e non fanno un cazzo, addirittura. Toccano e basta, toccano. Vengono così, non so se si fanno le loro fantasie erotiche, poi vanno a farsi una sega a casa, non lo so come funziona bene, però immagino. Vabbè, che sarà mica un bel ambiente. Beh, no, ma è così, ma ognuno, uno paga, poi fa quello che vuole, no? Ognuno la sua fantasia la stimola come vuole, no? Ma assolutamente, dunque 92 fanno 200 più l'ingresso, tu con 200 euro passi una serata ad alto contenuto erotico, se vuoi, no? Se vuoi. Ma anche con meno. Anche con meno, perché? No, vabbè, sto dicendo se proprio uno deve fare due, eccetera. Senti, sì, Marco, sì. Tu una ragazza quanto può guadagnare al massimo? Cioè, quella che guadagna di più, cioè ci saranno quelle più ricercate, no, da te, no? Siamo intorno agli 800 euro. Al mese? Al giorno. Ah, al giorno, sì, scusami. Anche una... quanto lavorano tutti i giorni? Così? Sì, qualcuna poi si prende il giorno di riposo, sono libera. Cioè, quella che guadagna di più guadagna anche 1000 euro al giorno. Si può arrivare a guadagnare anche 20-30 mila euro al mese? Sì, si può arrivare. Non è per tutti, ma qualcuna ce la fa. Sì. Vabbè, ragazzi, per stasera abbiamo finito. Grazie, Dario. Grazie, Dario. Allora, tutti, Moulin Rouge, grazie. Lugano, grande sondaggio della Zanzara. Qual è il più bello, il più sofisticato, il più produttivo, il più sessuale, il più erotico? Bordello svizzero. Lo so che non è per te, Parenzo, però accetta questa cosa. No, adesso arriveranno telefonate, eccetera. L'imprenditoria del sesso, in fin dei conti, siamo a Confindustria. A domani, ciao. Zanzare, uac bar. A zanzare, uac bar. Allora, andate al bar. Allora, andate al bar. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8. Lo dica a voce alta.